Dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E come ogni mercoledì, L'Onda in Onda torna a tenervi compagnia qui dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Dalle 18 alle 20 saremo con voi in questo fantastico pomeriggio ventoso qui in Sicilia. Accanto a me c'è Antonio che già scalpita per il suo ingresso. Antonio, ciao! Sì, ma intanto c'è un errore, perché non è vero che siamo tutti mercoledì, altrimenti saremmo andati in onda anche lo scorso. È vero, infatti lo scorso mercoledì eravamo appestati dall'influenza. Sì, esatto, e quindi sì, c'era un po' di tutto e quindi non siamo andati in onda, ma oggi invece in questa giornata ventosa noi portiamo il nostro vento di follia, ma dietro il vetro ovviamente alla regia c'è sempre il grande Brummo. Yeah. Ciao Brummo, come stai? Bene, bene. Sentito che mi è piaciuto. Sì, sì, molto californiano. Senti, il vento ti ha distrutto? Sì, sì, il vento ormai qua ci ha portato via pure. Ma infatti è andato, è passato da yeah. Sì, sì, a niente. Sì, il vento. Esatto, cioè, sì. Da yeah. È passato da yeah. Sì, il vento ci ha distrutto. Va bene, stanotte siete riusciti a dormire? Se non ci siete riusciti, noi non vi faremo dormire comunque, vi teniamo svegli e anche perché ci sarà la replica a mezzanotte, quindi ovviamente. Quindi vi teniamo svegli il pomeriggio e la notte. Se siete sonnambuli, va bene? Nottambuli, scusate, sonnambuli, perché? Allora, intanto diamo i nostri contatti per chi vuole tenersi appunto in contatto con noi: facebook.com/londainonda, twitter.com/ondainonda senza la L. Poi potete appunto vederci e ascoltarci streaming al sito radiopanorama.info.eu. SMS invece al 380 76 90 204. Sì. E poi cosa manca? Cosa beh, manca? Il numero, anche se volete chiamarci al fisso e farci sentire la vostra voce, 091 888 5182. Direi che come contatti siamo a posto, ma non possiamo cominciare questa puntata dell'Onda in Onda se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doccia, piano, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Eccoci qui appunto in diretta, perché si fosse collegato solo ora, noi siamo sempre quei bebè, i tre mattacchioni. Hai sentito? Bebè, bebè. Siamo i bebè, i tre mattacchioni dell'Onda in Onda qui su Radio Panorama, sempre in diretta da Termini Imerese. Senti Andrea, non ci siamo sentiti col nostro pubblico per due settimane e ovviamente è successo di tutto. Sì, sì, e di più, di perché tutto, noi ci siamo lasciati con semplicemente, chiamalo semplicemente, le dimissioni del Papa annunciate l'11 febbraio, che ora sono diventate effettive dal 28 alle ore 20, c'è la sede vacante in Vaticano. È successo di tutto, le elezioni per esempio. Sì, le elezioni con nessuno che ha vinto, ma questo ormai si sa, i no. Grillini che non sì. Vogliono fare nessun governo. Ma io ne parlerei più, tu dici sì, sì, sì, dicevi scusami, non voglio fare nessun governo. No, non voglio fare nessun governo e poi insomma... c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. No, ma perché infatti io volevo fare un attimo un paragone. Cioè, pensate, noi qui in radio quanti siamo? Tre. In tre, giusto? Pensi, ci sono io, che sono il cazzone che spara, facciamo finta che io sono Grillo, ok? Sì. Tutto questo. Andrea, che è quello un po' più, come dire, razionale, no? Però ogni tanto cade anche lui. E se quello tra i tre più razionale sono io, immaginiamoci. No, scusa, io sono l'ultimo. Aspetta, ora voglio aspetta, sapere chi sono. Sono io. Bersani. Io sono Grillo. Andrea Bersani. Ora a te toccherebbe Berlusconi guardando le giusto, giusto. Però siccome tu sei il tecnico, io ti affiderei Monti. Perché io sono il regista tecnico. Esatto. Ecco, facciamo finta che noi tre facciamo un sondaggio, no, tra il nostro pubblico e prendiamo circa il 30% ciascuno. Esatto. Che si fa? Che si fa? Voi che cosa si fa? Mettiamo infatti caso. Conduciamo in tre. Ecco, e quindi tu mi stai dicendo, caro Monti, che vorresti il governismo. Sì, alleiamoci, caro Bersani. No, lui... però devi essere più triste. Ma lui vuole il governismo. Aspetta, aspetta. Lui vuole il governismo però senza Berlusconi. Berlusconi. Senza, infatti, cioè, non c'è la convenzione escludendum di Berlusconi. Attenzione, vediamoci che c'è. Ecco, ora si riconosce il timbro da Mario, si riconosce. Va bene, allora, chiuso questa parentesi, diciamo intanto chi avremo oggi e cosa avremo oggi in questa puntata. Ovviamente le nostre classifiche, io potrei anche annunciare quale sarà la nostra classifica delle 10, i 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. Ah, perfetto, quindi restiamo un po' nell'ambito universitario, come con i coinquilini di merda. Noi continuiamo adesso gli esami, con il festeggiamento degli esami. Esatto. Poi avremo tante notizie e gli ospiti, soprattutto di questa puntata, sono due grandi ospiti. Il pubblico c'è, fallo sentire se c'è il pubblico. C'è, chiaramente. Avremo con noi Katy Passa dei Toxic Tuna e quindi sarà con sorella noi di Katy Perry. Quello è Katy Perry. Non sai che ti perdi? Sì, c'è cioè, che ti passa e che ti perdi. Va bene, continuiamo queste battute. Gliele potremo felice dire al telefono fra 10 minuti. Io credo non risponderà. Non risponderà più. E poi avremo Andrea Appino, frontman degli Zen Circus, che è uscito col suo album con questo album da solista, Testamento. Il Testamento. E quindi nel Furiondo c'è stato il cambio dell'album, che era il Testimo. Si è detto: Andrea, prepariamoci perché lo intervistiamo per il Testimone. No, Andrea, il Testamento. Quindi se già Andrea è all'ascolto, Andrea Appino, insomma, possiamo dirgli ho passato il testimone. Esatto. Anche questo fuori onda dava raccontato. Sì. Poi avremo una sorpresa, insomma, per chi ascolta, ci sarà un TG che affronterà i temi più importanti della, di quest'ultimo periodo. Settimanalmente collegati con noi, il TG degli amici di Lercio.it, un blog che vi consiglio di andare a vedere perché fa veramente morire dalle risate, prende il spunto. Ma noi parliamo di cose serie. Da Leggo. Sì, ma noi parliamo di cose serie. Noi parliamo di cose serie, infatti il TG sarà chiaramente serissimo. Intorno alle 19, se non alle sbaglio. 19, sì. E poi Marco dei Film Brutti alla fine della puntata vi dirà come punirvi per essere stati cattivi questa settimana, perché è chiaro che se ci ascoltate siete comunque già cattivi. Io direi di passare subito al prossimo pezzo, al primo pezzo. Io direi che, siccome stavamo parlando proprio di Andrea Pino, che fa questa sua prima esperienza da solista, no, fuori dagli The Zen Circus, e Andrea ha fatto un parallelismo con i Red Hot Chili Peppers, che avevano prima, come diceva lui, Giuvà, e poi è arrivato Anthony Kiedis. Dopo che è uscito dopo che è uscito quello, è arrivato Giuvà, è arrivato che sarebbe Anthony Kiedis. Noi ci ascoltiamo Giuvà con i Red Hot Chili Peppers in Look Around. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in come true. We'll be right back. siamo sparati i Red Hot Chili Peppers con Look Around. Intanto ci raggiunge qui, proprio negli studi di Radio Panorama, il nostro amico Giorgio. Ora ci verrà a salutare, appena potrà passerà da questa parte, diciamo, dell'acquario, dello schermo. Dello schermo. Sì, ma... comunque, sì, tu stavi dicendo, abbiamo chiuso la parentesi, io non la chiuderei del tutto la parentesi politica, ogni tanto direi qualcosa. Sì, per esempio una notizia che c'entra molto con la parentesi politica, sì, di cui parlavamo, 68 flaconi di sperma in frigo, ecco la tesi di laurea di uno studente, vedi, parliamo proprio di cultura, no? Ci volevo dire una cosa della scuola. Io volevo parlare dei grillini e tu parli degli spermini. Degli spermini. Si è masturbato chissà quante volte e ogni volta con pazienza ha messo il suo seme in delle fiale. Alla fine ne ha collezionate 68 e le ha messe in un piccolo frigorifero e ha deciso che l'esposizione del suo sperma sarebbe stata la sua tesi di laurea. Una tesi da esporre alla Visual Arts School di New York, con la possibilità per chi fosse interessato di prelevare e portarsi a casa un flacone dell'opera d'arte. Ma non tutti andano secondo i piani dello studente Mark Broderick Johnson. Qualcuno infatti ha protestato parlando di rischi per la salute per lo sperma non correttamente conservato. Così, in un primo momento, la tesi di laurea di Johnson di Johnson è stata sequestrata. Alla fine spiega il Goker. Chi è il Goker? Ma chi è? Vabbè. Si è arrivati ad un accordo, il Goker. Ma in effetti è spuntato dal nulla. Ma dal nulla. È una figura americana. Si sposa il Goker. Tu sai così, quando fai qualcosa e non va bene, arriva il Goker. Il Goker, che è una specie di... cazzo. Sì, è un corvo incriminante. E dice, te si è esposta, ma senza possibilità di prelevare i campioni. Soluzione che non ha soddisfatto del tutto lo studente. Ci ho lavorato mesi, aggiunge appunto il nostro caro Mark Bradley, visto il numero di flaconi. Ho fatto i calli alle mani per me. Ben 68, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Veramente questo senza... Goker a me un po' impressiona, vorrei scoprire chi è il Goker, ma insomma, chissà chi è il Goker. Senti, ma avete sentito come si presentano invece i grillini con la presentazione tipo X Factor? È un blog il Goker. Sì? Sì, sì, sì, sì. Attenzione, sì. Mi fanno segno dalla regia che devo salutare. No, non è vero. Salutiamo Stefania che ci sta ascoltando. Ciao, salutiamo Vivi. Ciao, poi salutiamo chi altro? Eleonora, Sara, svegliati, è primavera. Poi chi salutiamo, dai. Non lo so, comunque andiamo avanti con la notizia. Sì, appunto, i grillini si sono presentati con una specie di X Factor. Diciamo, ciao, sono Riccardo, sì. Sono un perito elettronico, non capisco una mazza di politica, ma spero di capirla presto. Sì, ieri, tra l'altro, uno di loro a Ballarò. Sì. Tra l'altro ha dato spettacolo. Lo sapevo che ci sarebbe arrivato. Dicendo che lui si è fatto una cultura, no? Il sì. documentario Zeitgeist o Zeitgeist, non so come si pronuncia, Zeitgeist. Su YouTube gli ha fatto scoprire una nuova visione del mondo. E tra l'altro sostiene che ci siano dei microchip impiantati sotto la nostra pelle degli americani, o comunque un esperimento degli americani per farlo. È un po' vaga poi questa interpretazione. E il fatto è che questo documentario è veramente un mashup di tante teorie complottistiche, sì, sì. Senza nessuna base vera e propria scientifica. Ma tu che ne pensi, studiata, diciamo... È attivissimo oggi, li ha sputtanati. Noi salutiamo sempre Attivissimo, sì, Paolo, per attivissimo. Sì, sì, sì. Il suo grande lavoro di debunker. Quindi debunker, sì, anche Goker, ormai lo diciamo, no? Anche Goker, sì. Ok, dobbiamo spararci subito un altro pezzo, mi fanno segno dalla regia. Sì, perché poi con noi ci sarà un'intervista che ti passa, passa. Quindi rimanete collegati con noi, il tempo stringe e vi aspettiamo subito dopo. E ci ascoltiamo i Soundtrack con Out With A Bang. Radio Panorama. Eccoci tornati qui in diretta, sempre dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese per l'Onda in Onda. Giorgio, come dicevo, ci ha raggiunto. Ciao Giorgio. Buonasera. Benissimo, lui saluta sempre molto allegro, ma mi dico sempre l'allegria. Sì, è l'allegria, è veramente un fratello di Mario Monti, sì, Giorgio, sì, sì. Monti, Giorgio Collina. E senti, Brumma, regia, mi dite che... Dica, dica. C'è già in linea la è nostra... È già in linea, Getty. Allora, come abbiamo anticipato prima, diamo il benvenuto telefonico a, posso dirlo, anche una gran bella ragazza, nonché DJ di... come te sei permesso? Va bene, diamo il benvenuto a Getty Passa. Ciao, Getty. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma tu da dove ci stai chiamando? Da dove ti chiamiamo, anzi? Guarda, mi state chiamando in una tristissima, a proposito di tristezza, Milano, che in cui piove, c'era stata questa parvenza di primavera, ma è durata veramente 40 ore, poi è tornata una giornata uggiosa tipica milanese, vabbè. Ah sì, a Milano, dai, non ti lamentare. Noi siamo qui in Sicilia, ma c'è stato pure un tempo tremendo, ancora devo dire che non è sì, che sia migliore. Sì, qui c'è stata una notte di tempesta, vento, pioggia, insomma. C'è la sabbia del Sahara che sta arrivando, infatti sì. Il cielo è color beige, non so cos'è, beige perché tanto sono daltonico. Sì, che bello. Che sì, sì, sì, ci sentiamo ancora più vicini all'Africa, fino a quando non faranno il famoso ponte, non sullo stretto, ma tra Tunisi e Palermo, anzi Gela. Allora, che ti passa? Sì. Qui dobbiamo parlare, che te fai un bel po' di cose, sei DJ e VJ, sì. Giusto? Sì, sì. Quando, esatto. Quando hai cominciato, diciamo, a rubarci il mestiere? Vabbè, scusa. Quando hai cominciato? Guarda, io ho cominciato assolutamente per caso, nel senso che, fino a quando sono piccolina, studio musica, ho studiato per tanti anni pianoforte, ho sempre amato cantare, ce l'ho sempre avuto nel DNA, questa cosa poi l'ho riscoperta da grande riguardando, sai, i filmati, le cose vecchie. Uh-huh. Ho scoperto che ero quella che cantava ai compleanni, alle feste, facevo sempre questo. Ah, perché però, tu avevi rimosso tutto, ti hai scordata tutto. Avevo rimosso tutto. Totalmente. Mi sentivo ridicola, quindi ho detto vabbè, facciamo altro. Okay. Io mi sono laureata in sociologia e all'interno di questo percorso di studio ho avuto un paio di laboratori da seguire. Questi due laboratori hanno visto, il primo si è tenuto all'interno di un servizio, diciamo, di chiuso per studenti, in cui c'era questo aggiornamento giornalistico, insomma, tenuto da Radio Popolare, radio in cui io attualmente anche lavoro qui a Milano, e poi dopo questo laboratorio immediatamente sono stata contattata dalla redazione perché avevo fatto appunto un buon lavoro, per cui è piaciuto, eccetera. Dalla radio poi ovviamente gira la voce che cominci a occuparti della selezione musicale, qui a Milano subito i gestori dei locali alzano le orecchie, mi hanno cominciato a chiamare a selezionare musica nei locali. Insomma, sei entrata nel giro, si può dire che sei entrata poi sì, nel giro. Sì, poi l'anno successivo, insomma, per farvela breve, ho fatto un altro stage in cui mi sono ritrovata a far condurre questo programma televisivo su un canale di Sky. All'interno di questo programma ho conosciuto Mario Riso, che ai tempi era all'interno di Rock TV, e con lui mi sono poi ritrovata a fare 3 anni di database su Rock TV, eccetera, eccetera. E poi, insomma, le altre cose che ho fatto che potete trovare su internet. La mitica Rock TV, la mitica Rock TV. Esatto. Dal 2005 poi mi sono ritrovata a cantare con i Toxic Tuna per caso, ma assolutamente per caso. Ecco, infatti volevo parlarti proprio di questo, della band Toxic Tuna, cioè anche lì per caso. Assolutamente, perché quindi possiamo dire, scusami, che la tua vita è stata una meravigliosa casualità finora, un po' tutto. No, in realtà ci chiediamo perché sei qui con noi. Perché sei qui con noi? È un caso. Noi in realtà dovevamo chiamare il fruttivendolo, ma abbiamo sbagliato numero. Abbiamo chiamato te, quindi stavi dicendo, scusa. Piuttosto è successo che io sono arrivata ai Toxic Tuna perché il chitarrista era mio compagno di università, quindi posso dire che i miei studi mi abbiano portato a quello che faccio oggi. A volte non ci si crede, l'università si prende sotto gamba, invece a me è servita un sacco. Fa bene studiare. Poi da lì ho cominciato, fa benissimo studiare. Bravo, vedi che brumma. Il nostro regista dice due parole per ogni però tanto. Però quando le dice sono è la morale. Lui... Che però tre. È la morale, esatto, la favola di Esopo, come si sì, può dire. Sì, esatto, esatto. Senti, e poi niente, poi da lì mi sono ritrovata a cantare, inizialmente si faceva altro, perché i Toxic Tuna già esistevano su delle scie molto più ska-punk, molto più anni 90, io cantando in italiano però ho portato subito questo approccio più melodico al genere, quindi poi dallo ska-punk siamo passati allo ska-jazz, dallo ska-jazz siamo passati a tutto quello che facciamo adesso, che è un po' più una commissione di vari generi, tra dub, elettro, sempre da reggae, quindi sempre musiche elevate per tutto quello che sono le nostre basi, però con dei testi che hanno un meaning un pochettino più intimo. Noi stiamo ascoltando... In questo momento, mentre tu stai raccontando alla grande, ti stiamo ascoltando con molta attenzione e un po' quella che è la tua carriera finora, stiamo ascoltando in sottofondo Ultimo Tango. Che lo sta sentendo. Ecco, perfetto. E leggo testuali parole. Un ultimo ballo proibito e pericoloso, per guardarsi intensamente e respirarsi un'ultima volta prima di allontanarsi, rinunciando alle parole futili e godendosi le vibrazioni che offre lo spirito. Belle parole. Ma sai che mi piace un sacco che tu la legga così, perché io quando ho scritto questa descrizione da mandare poi a voi delle radio, insomma, che tanto generosamente passate il nostro brano, l'ho scritto così, ma perché per caso per caso no. ormai è un tormentone. Canta che ti passa, che il nome del disco è nato obiettivamente poco per caso, invece, nel senso che ho deciso di mettere sul tavolino una serie di emozioni che mi hanno accompagnata negli ultimi anni e mi sono ritrovata a scrivere un disco di cui sono molto molto soddisfatta, assieme alla mia band, a scriverne i testi, a scriverli in maniera molto più intensa, a mettermi molto più in gioco come donna che ha sofferto la fine di un rapporto d'amore e tutte le cose, insomma, che tante donne all'ascolto potranno condividere con me. Quindi... Senti, ma parlando invece del tuo album, scusami ti interrompo, ma il tempo è anche tiranno. Certo, il tuo album esce il 26 marzo, avevi detto appunto Canta che ti passa, perché l'hashtag prima del titolo dell'album? Perché amiamo la musica vecchia scuola, quindi ci rifacciamo in tutti i generi che vi ho citato prima ad un sound comunque molto anni 60, quindi retro, ma allo stesso tempo ci uniamo al linguaggio multimediale, quindi l'hashtag oggi, come voi ben saprete, nel linguaggio di Twitter è il tormentone, quindi noi vogliamo che questa cosa diventi un tormentone, per cui speriamo che ci porti bene. Insomma, ci ha anche retweetato la cara Ketty, quindi almeno che non l'abbia fatto per caso tu oggi. No. È partito il male. Si capisce. Mi prenderete in giro per i prossimi 20 anni. Assolutamente non siamo quel tipo di ragazzi, assolutamente. Figurati, non ci permetteremmo mai. Allora, quando uscirà l'abbiamo detto il 26 marzo uscirà l'album Canta che ti passa, ma perdona i problemi di si chiama afasia si potrebbe anche chiamare, ma uscirà un tour per questo album? Guarda, c'è assolutamente un tour, non per caso, ci stiamo buttando anima, corpo e sangue, come voi ben saprete, in questo periodo convincere i locali del fatto che siamo belli e bravi è difficile, anche perché i soldi sono quelli che sono, ma ce la stiamo mettendo tutta. Vabbè, quindi potete andare nei locali a caso, potete andare anche nei locali a casa, passate ed entrate. Tanto c'è la fisarmonica. Esatto, mi beccassi 20 denunce al secondo credo l'avrei già fatto. Comunque obiettivamente stiamo studiando il tour, a parte gli scherzi. Il 20 marzo faremo il live di presentazione a Milano, a Rock and Roll di Milano, che è un locale in zona stazione centrale. Poi il 23 di marzo saremo a Bologna e da aprile faremo, per aprile e maggio faremo, ora insomma non ricordo tutte le date, però faremo un tour di promozione dell'album, per questo per i locali ovviamente chiusi, dopodiché sì, stiamo strutturando il tour estivo e vediamo assolutamente la Sicilia lì, proprio tra i nostri. Quando verrete in Sicilia? Quando verrete in Sicilia? Quando pensate? Non si sa. Perché allora, stiamo cercando di farlo tra aprile e maggio, sicuramente sull'estivo. Insomma, cercheremo di farlo al 100%, però la Sicilia è ancora una di quelle date non chiuse, quindi siamo ancora un po' sul forte, ma ci stiamo lavorando. Guarda, appena c'è il nostro regista, quello che ha detto prima, fa bene studiare, che è con le dita incrociate perché si è innamorato improvvisamente di te. Quindi speriamo di sapere al più presto la data, va bene? E vai. Però grazie, non ragazzi, parla più, non dice più niente. Non parla più, sì, tanto so che gli hanno già tagliato le gomme, una ragazza sì. che lo amava. È vero, tra l'altro, che gli hanno bucato le gomme. Non lo sapevi, ma è vero. Gliel'hanno bucate per caso, preventivamente, perché già prevedevano. Te lo giuro, gli hanno bucato le gomme. Si sarebbe innamorato di chi? Ma Antonio non lo sapeva. Va bene. Noi però non ha fatto niente di male. No, infatti, è solo innamorato. Si è solo innamorato, esatto. Sì. Viva l'amore, assolutamente. Viva l'amore, sempre e comunque. Allora, Ketty, ti auguriamo in bocca al lupo, tanta fortuna. E noi dobbiamo salutarti. Ci ascoltiamo, ultimo tango del tuo album che ti passa. E quindi vi invito ovviamente ad acquistarlo il 26 marzo. Sì, lo trovate sia su iTunes, nei digital store e nei negozi tradizionali. Quindi esatto, venite su toxictuna.it come tonno tossico, oppure su kettypasta.it per aggiornarvi su tutto quello che ci riguarda, se vi va. Perfetto, grazie. L'automarchettona te la sei fatta, quindi meglio di te nessuno. Allora ti ringraziamo ancora, Ketty, buona serata e ci vediamo, speriamo, presto in Sicilia. Anche Luis, il nostro regista, prepara già l'anello per le nozze. Ciao! Vai, ciao! Musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Romania, ciao Romania. Sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana. Questa è dedicata a voi da Piotta alias il Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Giaguaro, tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco, in alto, in basso, il tocco dal collasso, come miele appiccica nel sesso, mizzica, se pizzica, se mozzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone, ma tette sole, febbre dell'amore, come buscaglione, il dritto di Chicago, suscito passione con la mossa del giaguaro, e bravo, mamo, come te paro, para del culo da river giaguaro, me te sciogli in mano, te sciogli piano piano, a cottura lenta, il piatto è prelibato, il giaguaro, con sta mossa è troppo forte, chi bastona primo, bastona due volte, con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano, con la mossa del giaguaro, prendi questo frutto amaro, con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano, con la mossa del giaguaro. Sono giaguaro, son Lazzi, io non lavoro, manco se m'ammazzi. Viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda, scalda quel gran pezzo dell'Ubalda. Bamba, disco samba, un po' di rumba, arrivar giaguaro, un urlo nella giungla. Muovi la mano, giovannona, coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba. Come Ramba, stile pornografico, macio Piotta, mucio decamerotico. Entro, esco, non vengo presto, meglio un ritardo che il tuo pretesto. Stress, lavoro, impegni, sii più onesto, prima o poi te lo butto. Buttano in del posto, pacco, doppio pacco contro paccotto, occhio malocchio, preseme le finocchio. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano, con la mossa del giaguaro, prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano, con la mossa del giaguaro, prendi questo. pelle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a pelle. Il giaguaro è nei paraggi, assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, anche a tette grosse come Lolo Ferrari, io turi e compari, flamine e corveleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizi e tu non ce l'hai. Tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato. Anfami, dedicata a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendimi poi mano, cor giaguaro, cor giaguaro. Prendimi per mano, cor giaguaro, cor giaguaro. Prendimi poi mano, cor giaguaro, cor giaguaro. Prendimi per mano, cor giaguaro, cor giaguaro. Con la mossa del giaguaro tutti sciogli piano piano. Rientriamo dopo questa bellissima intervista. Tra l'altro, Ketty Passa. Sì. Stiamo ammirando le foto di Ketty in questo momento. Stai ammirando. Sto ricordati ammirando. Che io sono fidanzato e non devi dire cazzate. Ketty, insomma, quando scendi in Sicilia saremo ancora più felici di venire. Non avevamo visto le foto di Ketty, però. Sì. Abbiamo visto altre foto. Abbiamo approfondito. Oh, molto, molto bene. Va bene, chiudiamola qui. Basta, allora, andiamo basta. Avanti, andiamo avanti. Notizie. Diciamo che dobbiamo dire una notizia molto importante. E poi abbiamo un ospite. È una campagna che anzi vogliamo aiutare a fare. Non so se hai sentito che il casolare in cui fu assassinato Peppino Impastato il 9 maggio del 78 è in stato di totale degrado. Le istituzioni, diciamo che non sono molto interessate a tenere la memoria di un posto così importante e quindi si sta cercando di raccogliere dei fondi con delle donazioni, mandando una mail intanto con una petizione per l'esproprio a casolareimpastato@100passi.net. Ripeto, la scriveremo anche nella nostra pagina Facebook. Esatto, ripeto, casolareimpastato@100passi.net. Quindi che penso sia molto importante da diffondere. Senti, è tempo di ospiti che scalpitano. Sì, questi sì, sono sì, qui sì. Dal vivo, non sono al telefono, quindi io vado a chiamarlo mentre tu lo presenti. Va bene, è chiaro che chi ci ascolta sa già più o meno di chi stiamo parlando, almeno dei nostri ospiti che ci vengono a trovare spesso. Lui è uno di quelli che fa più scalpore, diciamo che è un ex medico nutrizionista che è stato cacciato all'ordine dei medici per aver non volontariamente ucciso un malato di ipertensione con una ricetta dell'anduia calabrese molto molto molto pepata. Da allora lui, per lavare l'onta di questo crimine colposo, gira le radio di Italia e ogni mercoledì riesce ad arrivare qui con noi all'Onda in Onda a parlare di quella che è la vera cucina tipica calabrese e la bontà di questa cucina che non fa male. E allora non possiamo che annunciare Tony Scopelliti con la sua grande tarantella calabrese. Caro Tony, Buonasera a tutti, sono contento di essere tornato. Lo notiamo, dopo questa pausa incredibile. Sempre contento. Come sta? Come sta? Molto bene, molto bene. Oggi ho pure una sorpresa. Che sorpresa? Non sarò l'unico a dire la ricetta. Ma come? Chi ci sarà? No, vediamo. Vediamo cosa. Lo deve sapere chi c'è. Io lo vedo chi è in studio, ma me lo dica. I nostri ascoltatori più attenti capiranno chi è. Chi è? È piccolo. Mi sta sul. Ha sei anni. Non dica parolacce che è un piccolo. Ma come sei anni? È più piccolo. Quattro anni. Faccia un po' lei. È che diventa sempre più grande, mi confondo. Questo bambino, sto sì. Cretino. Allora facciamo che un piatto lo dico io. Gli ingredienti li dirà ma lui. Ma come si chiama? Che cosa ci porta oggi intanto? Aspetta, ma gli ingredienti li dirà lui e io dirò solo la preparazione. Ah, ho capito. Okay. Ma non credo il bambino sia adatto per leggere gli ingredienti. Allora io leggo gli ingredienti e il bambino la preparazione. No, nel senso che non si capiscono, magari lei li deve tradurre. Ah, poi. Va bene, allora facciamo come ho detto io. Oggi vi porto un morso giù. Cosa? Un morso giù. Un morso giù. Sì, con l'accento sull'ou, perché l'avete già fatto in passato una volta, mi pare. Ah, sì? Sì, se no sarebbe morso. Invece è morso giù. Ah, perché è già fatto, è un esatto. Passato. Ho capito. Ed ma cos'è? Lo stufato d'interiore. Ah, stufato, si chiama morso giù. Esatto, ma con la voce strana in Calabria. Allora, Michelino. Vedi? Vedi? Questo bambino è un idiota. Cioè, allora, non ragiono. Michelino, comincia a dare a poco gli ingredienti. Io aiuterò nella traduzione. Vai, sì. Michelino. Interiore di che è un cretino. Sì, interiore di maiale o vitello? Interiore di maiale o vitello. Vai, questo Michelino. Ha detto il idiota. Esatto, sì, il bambino. Vai Michele. Olio d'oliva. Quanto? Quanto? Mi fanno segno Michelino che devi parlare più forte. Quanto olio d'oliva? Un bambino, cosa tequila. Vuole che ne sappia? Vai Michelino. Vabbè, aglio. Aglio questo era. Sì, esatto. Aglio. Quindi per ora abbiamo interiore di maiale o vitello, olio d'oliva e aglio. Esatto, poi andiamo avanti. Che dolce, salsa di pomodoro. Olio di coglio. Sembra che scrivi la letterina a Babbo Natale. Allora, cosa hai detto? Peperone, rosso peccante, fresco a scaglie. O a scaglie, che sì. Bello peccante. Poi? E poi? E poi Michelino? Sale, che tu. Bambino è proprio un cretino. Andiamo alla preparazione. Sale, non fa male. Ma allora, andiamo per lei quando sente parlare Michelino. Dovrei da cretino. Sì, perché il bambino stesso. Ma perché divento piccina? Ma i genitori dove sono di questi idiota? Morti. Come morti? Quantuia. No, sono morti. Non lo dire che mi faccia mamma. Allora, tagliate a pezzetti fegato, polmone, cuore, cipolla. Questo e è il procedimento. Esatto. Ricapitoliamo questi ingredienti. Interiore di maiale, vitello, olio d'oliva, aglio, salsa di pomodoro, peperone rosso peccante, fresco a scaglie, sale. Oggi non ne do quantità, fate voi. Tagliate a pezzetti fegato, polmone, cuore, cipolla, maiale, vitello. Ecco. Soffriggete tutto in un tegame con olio d'oliva e pezzetti d'aglio. A cottura quasi ultimata aggiungete salsa di pomodoro, il peperone fresco o secco e sale. Servitevi del composto ottenuto per farcire dei panini o fette di pane casereccio o pitta. Cosa? È la pitta. Cos'è la pitta? Quando uno è piccolo come dice mamma dammi una fetta di pitta. Pitta. In realtà è la pitta. Non c'è un'altra realtà. La pizza. E il nome deriva dal fatto che si consuma a morsi. Certo, il pitto e il morso in calabrese antico. Ma che sta dicendo? Lo sapeva lei. Un morso e du. No, un morso e du. Ah, scusi, pensavo che era la pitta che si chiama. La pitta. Lei pensava che il nome deriva dal fatto che si consuma morsi. Va riferito bene, alla pitta. Vi saluto. Torno in Calabria. È un cretino. Salutiamo Tony Scopelliti e l'idiota del bambino di... come si chiama? Michelino? No, Tony, non imiti Michelino, perché guardi, non potrebbe nemmeno fare. Ma la smetta, per favore, il bambino Michelino è già Rauco. Andato via. Va bene, allora ci spariamo il prossimo pezzo e torniamo subito dopo con la nostra classifica. È sempre dei soundtrack questo pezzo? Sì, sempre, sempre loro. she's sexy. Move, she wants to move. But you're hogging her, spotting her. She wants to move, she wants to move. But you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister. My girl, she loves it. I can see it in her eyes. She hope it lasts forever. Her. Beat it! Mister, look at your girl. Damn. She loves it. She loves it. I can see it in her eyes. She hope you last forever. Hey! Come on. Mister, look at your girl. Look at her. She loves it. She wants it. I can see it in her eyes. She tornati in diretta, sempre qui su Radio Panorama, sempre con l'onda in onda. Abbiamo ascoltato due grandi pezzi, uno in fila all'altro. E ridiamo i contatti. Assolutamente, ci potete scrivere, anzi dovete farlo, altrimenti vi banneremo dalla vita, su www.facebook.com, li uccideremo insomma, / l'onda in onda con la L, o twitter.com/ onda in onda senza la L, perché costava di più. E cosa mi fa segno? Vuoi palpare qualcosa, regista? No, abbiamo 5 minuti prima della pubblicità. Non capivo. Dobbiamo iniziare la nostra classifica delle 10. Sempre ambito universitario. Sì, e questa volta è i 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. Ricordando però che dopo la pubblicità, ecco che c'è l'applauso del pubblico, ormai si eccita. Ormai sai che la classifica è uno dei momenti più attesi, sì, sì, di questo programma. Ma dopo la pubblicità ci sarà un altro momento molto atteso, che è quello del nostro nuovo TG, il TG Lercio. Quindi non andate via, anzi state attenti, perché dopo la pubblicità potreste ascoltare qualcosa di molto interessante. E visitate lercio.it, che sono gli autori che ci mandano queste bellissime notizie, sentirete subito dopo la pubblicità. Iniziamo con la nostra classifica dei 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. Al decimo posto le... Aspetta, no. Aspetta, malsani. Aspetta, perché hai detto qualcosa di... Inedito. So, era peggio di inedito. È arrivato a una velocità tale che stavamo per entrare in un'altra dimensione. Andava a 240 bit. Sì, per velocizzare. 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. Era inedito. Inedito. Decimo posto, Andrea. Le uova. Praticità. Cucinare delle uova strapazzate non è difficile e tutti dicono sono salutari. Spesso lo studente si improvvisa artista e con spezie trovate nella casa in cui risiede, rigorosamente ereditate da ex abitanti, si diletta ad arricchire l'essenza delle uova nel vano tentativo di renderle più appaganti. Cambia il colore, ma il risultato è lo stesso. Due misere uova nello stomaco contribuiscono unicamente ad aprire voragini di fame. E quindi, insomma, le uova sono la nuova foto. Non posso vedere questa foto. Vabbè. Sono, diciamo, le cose più stupide che puoi mangiare come pasto malsano, essendo sì, al decimo posto, perché già saliamo al nono posto e abbiamo i Wrüster. E io ricordo quei Wrüster, cosa facevamo noi a casa del nostro amico Fabio, in notturna, pur non essendo ancora universitari, facevamo delle grandi scorpacciate di Wrüster in padella, ideali per gli spuntini notturni in chimica piena, chimica come materia universitaria, certo, ovviamente, non come fame chimica. I meticolosi li sciacquano, i veri eroi li addentano quando sono ancora ricoperti di disgustosa sostanza gelatinosa. Che poi non molte le hanno, molte. No, è vero, non molte. Il Wrüster è la carne è il lusso, nel frigo dello studente non dura molto. Ma a meno che non ci sia la carne comprata, no? Quella carne di cavallo. Ma dobbiamo parlarne dopo la pubblicità, ne parleremo dopo. All'ottavo posto, velocissimi, e poi lanciamo la pubblicità, il toast. I primi tosto del mese sono gonfiati da ogni ben di Dio. La seconda settimana del mese di tutto il companatico è rimasta la miseria di una sottiletta. La terza e la quarta, un tosto è fatto solo di pancarré. Non c'è più prosciutto, non c'è più formaggio, non c'è più insalata. Rimane il pane ruvido, pastoso, che si incolla al palato e si incastra in gola. E poi potete farci anche una bellissima bruschetta alla siciliana. Assolutamente, alla siciliana. Secondo me... Come si fa la bruschetta alla siciliana, Andrea? In 3 minuti. Pomodoro, utaghi, ci metti l'aglio, il prezzemolo, lo metti sul pane e tu mangi. Bravo, applauso. E te l'ho detto anche in siciliano. Addirittura, che ovviamente abbiamo quello calabrese. Utaghi. Ce la facciamo a dire il settimo posto? No, non ce la facciamo, mi sa, dobbiamo lanciare subito la pubblicità, quindi rimanete con no, noi. No, prima una canzone e poi una canzone, la pubblicità e poi il nostro TG. Allora, ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Buonasera e benvenuti all'edizione settimanale del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Diamo subito le notizie. Brescia, operaio trova sull'autobus una borsa con dentro 200.000 euro e se la tiene. Corrompevano le autorità per avere i posti migliori, raffica di arresti in una terza elementare di Reggio Calabria. Roma, lavavetri va in pensione, semaforo sulla Tuscolana diventa sede vacante. Napoli, ha tentato di nuovo il suicidio la pensionata che aveva vinto 2 milioni di euro al Super Enalotto e li ha spesi tutti in gratta e vinci. Stambecco a Zanna Sogliola, attimi di panico, a una festa in maschera. Napolitano cerca di smorzare le polemiche coi tedeschi sui risultati delle elezioni italiane. Ho sempre avuto il massimo rispetto per tutti i mangiacarauti del cazzo. Prosegue il raduno dei neoparlamentari 5 Stelle a Roma. Un cane ha fatto i suoi bisogni davanti all'hotel che li ospita ed è stato immediatamente arrestato dalla polizia del movimento, nuovo organo militare nazionale appena costituito. Beppe Grillo ha cercato di minimizzare l'accaduto. Quel sacco di pulci è la metafora perfetta dei partiti che pensano solo a cagare sul nostro futuro. Vaffanculo al cane. Cultura. È stato inaugurato a Vercelli il primo museo delle parentesi graffe. Secondo un recente sondaggio eseguito dalla squadra mobile di Mestre, 10 studenti liceali su 10 non approfitterebbero mai di una compagna ubriaca, svenuta e lasciata sola dalle amiche in una stanza da letto. Gli intervistati si sottoporranno ora al test del DNA perché alla festa c'erano solo loro e la ragazza è incinta. Maurizio Landini sarà il cattivo nel prossimo Batman. L'uomo pipistrello dovrà impedirgli di introdurre le 35 ore e la settimana corta nel Wayne Industries. Moda, per la prossima stagione l'ultima tendenza sarà la forfora sulla giacca. Secca o grassa non importa, dicono gli stilisti. L'importante è che sia distribuita uniformemente su entrambe le spalle. Calcio, il giudice sportivo ha inflitto a Chiellini una giornata di stop dopo che i filmati di Juventus-Napoli hanno mostrato che durante un calcio d'angolo il difensore della Juve ha sparato in faccia a Cavani con una calibro 9. Salute. In caso di infarto, gli esperti consigliano di contattare subito un medico invece che cercare una cura su Wikipedia. Spazio. La NASA ha diffuso sul web le foto scattate da Hubble del primo pianeta cilindrico. Intanto su Marte proseguono le analisi della sonda Curiosity per scoprire se quella che ha schiacciato è veramente una merda. E vi diamo appuntamento al prossimo TG Lercio da L'Onda in Onda. Siamo tornati, sì, primo TG Lercio. Sentito questo TG Lercio. Sì, notizie interessanti, insomma, vediamo la prossima settimana cos'altro avranno da raccontarci quelli di Lercio. Salutiamo Lercio.it, un applauso, che hanno scritto queste notizie completamente assurde. Sì, e... ma non troppo. Non troppo, soprattutto quella dello stambecco, ma sai, era abbastanza veritiera. Ma anche quella della giacca con la forfora, perché se ne vede tante in giro, sì, quindi sì, potrebbe sì, diventare una moda e nessuno avrebbe anche, più. Anche Grillo, in effetti, anche quella di Grillo. Quella del cane di Grillo è sicuramente la più vera, ma parliamo del IKEA. Sì, parliamo dell'IKEA. Ci stanno... Avete presente Abbadantone fa: ma che avete preparato? Puppette de merda. Esatto. E invece loro: torte di merda. No, prima c'è la carne di cavallo. Prima c'è la carne di cavallo. Assolutamente. Nella buitone. Nei tortellini buitoni. E sì, adesso cacca nelle torte IKEA. Però torte al cioccolato. Torte così al non cioccolato. Si nota. No. Presenza di batteri fecali nelle torte. Poi vorrei capire perché un italiano va a comprare da mangiare la torta all'IKEA. Una torta perché svedese. Perché è fatta con la panna montata. Ma perché la torta all'IKEA la monti. Due cazzate insieme. Mentre io cerco di dirti no, tu non hai dirla, aggiunto. No, lui no, ha appena detto no. La panna montata e tu perché la monti, compà? Perché lui è Monti, abbiamo detto stasera, ah, già, il tecnico. Vero. Comunque sì, veramente qualcosa di da non ridire, ma stanno scoprendo tante altre cose a quanto pare. Anche... Sì, ma ieri hanno scoperto che Andrea è mezzo cavallo. Vero, sì, infatti. Tu quanto ne hai mangiata? Ma questo sei pazzo come tantissima, un cavallo. Tantissima. Perché non ogni fai sentire giorno ai nostri ascoltatori no, cosa succede quando noi mandiamo un pezzo? Che la prima reazione che hai? Ecco, quindi pensate poi che... Questo era un cavallo che stava subendo uno stupro sessuale. Stupro sessuale. Però è stata trovata anche la notizia dell'ultima ora è che è stata trovata torte con alle i batteri mandorle, anche sì, nella torta alle mandorle, non soltanto in quella al cioccolato. Esatto. Vabbè, non ho parole, io penso che non mangerò mai più nulla. A questo punto mi ciberò solo cacca di, nella torta. Solo di frutta buona, che buona, però. Coltiviamo nella mia campagna e basta. Quindi diciamo mangiare biologico e sano. E senti come scrive, ma è biologico. Scrive Gabe su Twitter di genuino all'IKEA non resta che mangiare le mensole. Assolutamente. Cioè, perché effettivamente se lì hanno messo le cose si chiedono tutti di che sono fatte le mensole? Di vaniglia? Già, non si sa. Vabbè. Comunque sta retweetando e a proposito ricordiamo sempre twitter.com/ondainonda, facebook.com/l'ondainonda, quindi se avete domande, volete offenderci, dirci qualcosa, andate avanti. Allora Andrea, vedo che hai una notizia pronta, sì, importante. Ho una notizia che è di quelle che insomma fanno... Sì. Riflettere sì, non da Lercio tutto... diciamo una notizia no, vera. Una notizia vera, una di quelle che fanno serio riflettere e su cui bisogna indignarsi, bisogna indagare soprattutto sul perché e quali sono le, sì, insomma, le politiche che devono attuarsi perché questo non venga più. Infatti si parla di lavoro, sì, una triste storia, perde sì, il lavoro e diventa gigolò, ma pone dei limiti. La cittadina turistica di Anguillara Veneto. Perché Anguillara? Perché non è era spagnolo. No, perché era? È sempre stato italiano. L'anno poi se l'è comprata a Venezia e è diventata Anguillara Veneta. Perché Venezia? Perché madre? È a Padova in realtà tutta la notizia. Ma vabbè, è stata venduta da Venezia. Andrea, io a Padova ti credo. Vabbè. È stata da poco tappezzata di annunci da un 28enne che offre prestazioni da gigolò con tanto di numero di telefono e la promessa di amicizia e compagnia per cena e dopo cena. Attenzione alla parola gigolò, si materializza Eleonora. Ciao Eleonora. Salutiamo Eleonora di dietro radio. Ti saluta anche Ketty, poi chiedi a Bruchi e Ketty. L'idea è avvenuta ad Andrea, così dice di chiamarsi nel volantino, infatti l'ho scritto io, un operaio che dopo aver perso il lavoro si è lanciato nella nuova carriera di accompagnatore. Perché l'ho fatto? Semplice, sono anch'io una vittima di questo brutto momento che sta vivendo l'Italia. Racconta al Gazzettino: lavoravo come operaio e sono stato licenziato. Per un po' ho cercato un altro impiego, diciamo così, normale. Quando tu, no, Anton? Antonio, quando tu cambi impiego, no? Sì. Cosa ti viene in mente? Allora, io siccome sono laureato in medicina, da poco ho iscritto all'Ordine dei Medici, a me viene in mente di andare a... Che devo dire? C'è una cosa in particolare. No, volevo sapere, quando tu cambi impiego, la prima cosa che ti viene in mente? Parcheggiatore. Parcheggiatore. Perché comunque guadagnano un sacco di soldi. Poi ho avuto questa idea, infatti dice, dopo qualche diffidenza iniziale, il giovane diventa più espansivo. L'ho fatto anche per un senso di trasgressione, sebbene non abbia mai avuto esperienze di sesso a pagamento, ma ancora, a parte quelle dei giornali, non ho ricevuto chiamate. Stiamo a vedere che cosa succede. Andrea non ha ancora le idee chiare su come svolgerà il suo nuovo lavoro, ma parte da basi indiscutibili. Il sesso sarei disposto a farlo con una donna non troppo anziana, diciamo dai 40 ai 50 anni, quindi diciamo si tratta bene, no? Perché le MILF, sì, no, sì, vanno, le MILF ci stanno ancora. Oltre assolutamente no, sono ancora giovane, non mi pare davvero il caso, al massimo sarei disposto ad offrire compagnia e ascolto. Sono molte donne a cui basta anche una serata a cena per sfogarsi, al momento non esiste neanche un tariffario. Francamente, dice Andrea, non ho neanche idea di come comportarmi al primo appuntamento, magari ci siederemo ad un tavolino per un caffè e poi si vedrà. Il ragazzo che si dichiara single non ha rivelato la sua decisione alla famiglia, ma solo a qualche amico fidato. Vorrei vedere se la chiama, verrà chiamato da sua madre e poi cosa dirà. Esatto, ma mi fa segno il regista che abbiamo già, mi confermi, l'abbiamo in linea? Abbiamo, come già preannunciato prima, l'onore, il piacere di avere qui live ai telefoni di Radio Panorama all'interno dell'Onda in Onda, Andrea Appino. Ciao Andrea! Ciao a tutti, l'onore è mio. Sei un grande, sei un grande, no? L'onore è nostro, che abbiamo avuto il piacere anche di vederti dal vivo in due occasioni separate, io e il mio collega, ma ti abbiamo visto insieme agli The Zen Circus, veramente dei grandi, veramente dei grandi. Vi ho apprezzato tantissimo, io vi ho visto l'ultima volta ai Candelai a Palermo. Gran bel concerto, bella atmosfera, poi quel locale a me piace parecchio, quindi. È uno dei nostri preferiti, anche perché ha l'aspetto di un bordello, diciamoci, anche se ci confermano che non lo è. E torniamo alla notizia del gigolo. Sì, e infatti ci riallacciamo così alla notizia del gigolo. È vero. Di quelli vecchi, insomma, sì, la vecchia proprio. È vero, insomma, è con gli specchi, quel soppalco lì sopra che ti fa immaginare che ci siano delle stanze, è vero. Esatto, sopra ci sono tutte delle stanze qui. Bravo. Però non lo è stato, è comunque un gran posto, ha una sua atmosfera particolare. Esattamente. Andrea, che onore averti qui. Allora, dici un po' intanto come stai? Tutto a posto? Benissimo, il disco è uscito ieri, anche se sta arrivando nei negozi in questi giorni. Ah, perfetto. Io sono contento, matto, tutto va per il meglio, no, bene, anche se non mi sono fermato un attimo, ma d'altronde va bene così. Vabbè, ma chi si ferma è perduto e poi è bello poter esprimere quello che sia, assolutamente. Il disco uscito ieri si chiama Il Testamento. Appunto. E non Il Testimone, come il Testimone, no, perché vabbè, c'è stato un fuori onda bellissimo. Antonio, Il Testimone è il disco. Il Testamento, idiota, vabbè. Giustamente. Non era male Il Testimone come titolo. No, però c'è già Piff che fa la trasmissione Testimone. Quindi, sì, però potrebbe essere anche quella un'idea. Senti, cosa c'è dentro Il Testimone? Se tu dovessi dire, ecco, Il Testamento. Il Testamento. Vabbè, ora è finita. Allora, ve lo risolvo così. Il Testamento testimonia. Ok, grazie. Fondamentalmente, mi vuole rifugiarvi all'interno di una figura che è abbastanza... Aspetta, Andrea, ti sentiamo malissimo. Dovresti spostarti un pochettino. Sentite, ma io mi sono spostato nel mezzo, perché casa mia è in gorgo. Cioè qua ti sentiamo bene. Resta lì. Infatti sono fuori dalla finestra, ottimo. Ecco, perfetto. Non te lanciare, vai. Insomma, in ogni caso, appunto, che poi andrebbe a toccare anche un argomento della prima canzone, ma non lo farò. Okay. In ogni caso, Il Testamento testimonia questa mia voglia di viaggiare attraverso la figura della famiglia italiana. Ah. In tutti i suoi aspetti, quindi non solo della famiglia, padre, madre, fratelli, sorelle, ma anche quella che ti sei scelto, no? Quindi anche la compagnia di persone che ti accompagnano, in generale sulla convivenza civile all'interno delle famiglie, perché mi sa che l'Italia è un paese decisamente legato alle famiglie in vari aspetti, tra l'altro se ne potrebbe parlare per ore. Sì. Ho affrontato questo punto qui perché è il primo esempio di convivenza civile che abbiamo sin da piccoli, quindi insomma è importante per quella che poi sarà la convivenza con gli altri esseri, no? Quindi sì. Tutto lì, analizzo la famiglia. Beh, questa è già una... tra l'altro, temi della famiglia comunque li avete anche toccati con il gruppo, con altri pezzi molto belli, anche presentati da... Assolutamente, sì. Infatti solitamente erano molto autobiografici, infatti anche questo disco è decisamente, se non quasi tutto, autobiografico, Però tendo a nascondere le note di autobiografia, non troppo, ma abbastanza. Abbastanza, da sì. Da non renderle riconoscibili. Io torno a dire che, siccome posso dare testimonianza di avervi visto dal vivo, vedere un concerto di Andrea e gli Zen Circus dal vivo è una grande esperienza, perché non è solo musica, ma è proprio teatro, teatro canzone, c'è tutto. Si esce da lì completamente storditi, rincoglioniti e felici. Questa è la sensazione che ho avuto io uscendo dal concerto. Molto, bene. Bene. Infatti già mi mancano gli Zen in realtà, ma anche infatti questo qui è il modo, fondamentalmente mi passo l'anno di pausa degli Zen a giro, perché un po' è una malattia, io soffro di questa malattia, non riesco a... È una bella malattia, non se ne può uscire. È una bella malattia, possiamo anche non uscirne. Senti Andrea, ma... con l'esperienza degli Zen, tra poi questa esperienza che stai svolgendo adesso, quella da solista, cos'è cambiato da quando avevi 20 anni? Questa domanda te la potrei fare anche a te, pur non sapendo la tua età. Sì, però tu ci hai scritto un pezzo sui 20 anni, quindi... è vero, è cambiato, non è cambiato molto da un certo punto di vista, in realtà. Non è cambiato molto. Di certo, guarda, stavo parlandone proprio pochi giorni fa. Che più che dentro, ma io ho sempre pensato che ci sia talmente poco tempo che la cosa che voglio fare è migliorare il più possibile, proprio come essere umano, no? E quindi questo non ha niente a che vedere con un lato religioso, ma proprio da un lato, un punto di vista di migliorie interiori, cioè di vivere meglio io la mia vita e di farla vivere meglio a chi mi sta intorno. Purtroppo però cascano denti, cominciano a venirti strani dolori, acciacchi e cose che precedentemente non pensavi nemmeno esistessero. E questo un po' mi fa incazzare, un po' ce l'ho con chi si è occupato di fare in modo che tutto questo avvenga in questa precisa maniera. Quindi direi che l'unica cosa che sento di veramente cambiata, oltre al fatto che sto cercando veramente di migliorare quanto più possibile, è semplicemente quella fisica. Mi dispiace, non sento grandi cambiamenti, anzi, forse dovrei farne, chiedetelo a chi convive con me ogni giorno. Un pensiero abbastanza profondo. Mi ha lasciato un po' senza parole. Sì, comunque sicuramente non è banale. Non è un'intervista come le altre. Se volete posso mandare a fanculo tutti. In due sì, vai. No, già lo fa Grillo, non sei nuovo. Fai una cosa nuova. La fregatura è quella lì. Lo fa già lui. Senti, fai una cosa nuova, manda a fanculo Grillo. Esatto. Dai, in diretta sui microfoni. Ma fa fanculo Grillo. La polemica. Non creiamo polemiche, fanculo tutti. Diciamo che di sicuro lui non che ne l'abbiamo allontanato dal fanculo, anche lui. Ci mancherebbe. Ma domani Beppe subito replicherebbe: guarda questi Zen Circus che mandano a fanculo! Cioè subito finirebbe così. Belin! Comunque senti come gli altri, mainstream. Sì, è stato parlare con te, non si può non parlare di Mario Monicelli, al quale tra l'altro è dedicato proprio il testamento. Ho dedicato il primo pezzo, che si chiama appunto Il Testamento, diciamo che velatamente dedicato alla sua... il pezzo in realtà parla di scelta, ovvero dell'importanza di scegliere. E a me è piaciuto un casino Monicelli, perché quando ho saputo che è morto, che stava per morire, era insomma lì per morire per una malattia, un tumore al pancreas, e ha deciso di scagliarsi dalla finestra dell'ospedale. Io ci rido, ma io mi immagino quest'uomo di 90 anni che in coerenza totale con tutto quello che ha fatto e detto per una vita, ha detto "Motte frego" e si è lanciato lui dalla finestra prima di farsi curare. Ha voluto fregare la cosa, tra l'altro, che abbiamo pensato quasi tutti. Ha voluto fregare la malattia, l'ha fregata. Esattamente, un po' l'ha fregata, poi vabbè, ovvio che qui si sta parlando di una persona di 90 anni e sonati, quindi insomma... Certo, diciamo che ha tutta un'altra valenza, tutt'altra implicazione, certo. E che oltretutto in vita ha fatto grandi cose, però in realtà ho preso lui come esempio per parlare della scelta, di quanto la scelta sia importante. Poi c'è un altro pezzo che si chiama Solo gli stronzi muoiono, sì, che è la risposta che lui ha dato, in un'intervista che gli chiesero: maestro, ma lei ha paura di morire? E lui ha risposto così: io no, tanto solo gli stronzi muoiono. Grande, bisogna capire se lui faceva parte o di no di quella categoria, non credo proprio. Senti, io leggo in un'altra intervista su Rock It, proprio su questo argomento, sì. Su questo pezzo Solo gli stronzi muoiono, che ti rifai a un altro pezzo che il lupo cattivo vegli su di te, che noi ascolteremo subito dopo la tua intervista. Ci parli di questo pezzo? del lupo. Il lupo in realtà è il pezzo forse che meno parla di famiglia in sé, cioè in sé non sta parlando proprio di famiglia, ma è una ninna nanna, e quindi direi che la ninna nanna ha a che vedere molto con la famiglia in senso tradizionale. Il fatto è che spesso diciamo che il testamento è un'analisi molto profonda dell'io, nel senso che si va a analizzare i motivi per cui i peggiori nemici della nostra vita stanno dentro di noi, no? Se questa cosa spesso purtroppo è legata alla famiglia, spesso anche no, non solo in ogni caso. Ecco, il lupo cattivo prepara il disco a questo argomento parlando di un'altra cosa, del fatto che spesso invece sono i mostri che ci vengono dipinti come tali che in realtà ci salvano. Te lo dico perché la mia vita l'ha salvata in qualche maniera un centro sociale chiamato Macchia Nera, che ai tempi nessun ragazzo era permesso andare dai genitori perché era il tempio della droga e della malevolenza. In realtà mi ha salvato la vita quel posto e tutti i freak che ci stavano, in tutti i sensi, parlo degli strambi. E in realtà se io non fossi andato lì probabilmente non sarei qui a parlarvi e probabilmente avrei dei grossi problemi in questo momento, quindi credo seriamente che tutto ciò che è visto come differente, diverso e mostro in qualche maniera deve essere protetto quando lo senti a te affine, quindi ecco una ninna nanna al contrario, no? I mostri proteggono e la città là fuori è il vero titolo. Guarda, io starei ore e ore a ascoltare. Ma Andrea la radio purtroppo ha i tempi. Veramente, sì. Quando ti spiega le cose così e ti fa venire veramente la voglia di ascoltarla. Questa è facile, questa è la poesia, facile. La poesia. No, se vogliamo parlare della massa oscura, lì ho problemi. No? Allora, evitiamo di scendere in Italia. Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo. E ringrazio voi. Ricordiamo il disco, appunto, Il Testamento. Stiamo ascoltando e ascolteremo adesso ancora, appena chiuderemo con te la telefonata, il pezzo. Ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. Mi viene da citare una piccolissima frase di un vostro pezzo degli Zen Circus che a me piace molto: pensa poco e ridi scemo, che la vita è un baleno. Questa mi viene a voglia di citarla così. Va bene, grazie, esatto, per essere stato con noi. Saluto ai ragazzi, grazie e buona fortuna. Ciao Andrei, buona fortuna a te. Ciao. Ciao, ciao. Già, nascondi in fondo al cuore la tua diversità, che il lupo cattivo vegli su di te insieme a tutti gli animali che sono tali e quali a te. Nella periferia si svegliano i plebei che in tempo erano forti e curiosi come noi, invece adesso sono figli soltanto. il lupo cattivo vegli su di te, di Andrea Appino. Molto molto bella, bella intervista. Ma oggi devo dire che le due interviste, perché ricordiamo sempre, ciao, so, come stai? Bene. Ci sei? Pronto? Sì, sì. Ah, no, non pensavo fossi morto in diretta. L'intervista più allegra si chiamava Alessio. Tanto domani ci denuncia. Madonna, ma faceva parte di qualche gruppo di quei tristoni. Ma secondo me tristoni. Dormiva, sì, non lo so. Il gruppo come si chiama? I Tristoni del West? Non lo so. Cioè, vabbè. Il professor Tristazzi. Professor Tristazzi, che se non studi per Tristazzi all'esame sono guai. Ovviamente, che tutti pensano male. Vabbè, sai cos'è Spotted? No. Lo sapevo che non lo sapevi, perché te l'ho chiesto durante il pezzo. Allora, Spotted è, come si vuol dire, un nuovo tormentone, una moda nata in America, credo in un college se non sbaglio, in cui praticamente diciamo che è una sorta di gossip girl come telefilm che si svolge su Facebook. Si crea una pagina Spotted e tu scrivi tipo in forma anonima, mandandola agli amministratori della pagina. Parlo di te ad esempio, ehi tu oggi in prima fila biondino, sei una testa di cazzo, ma non dico né chi sono io che l'ha scritto né chi sei tu a cui è indirizzato, perché ovviamente loro non lo pubblicherebbero, quindi tutto rimane in forma anonima. Sono gli amministratori che sanno chi ha mandato cosa, punto, e decidono cosa pubblicare filtrando i messaggi. Quindi c'è di tutto, cioè ad esempio uno dei primi a Palermo è nato proprio dentro medicina, Spotted Meppa. Ora tutte le facoltà ce l'hanno, giurisprudenza, economia, a poco tutte, medicina terzo anno. Tu dai ricci castani e gli occhi tersi come il cielo azzurro di Svezia, sappi che poc'anzi mi sono steso sul divano, ho chiuso un poco gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. Ah, è anche un omaggio tra l'altro a Lucio Dalla, infatti Dalla. Proprio il giorno, il 4 marzo. Oppure tu che sei bassina ma ben dotata, sei tanto graziosa ed educata, abbiamo parlato tempo addietro ma ho sentito tante voci sul tuo di dietro, in facoltà, in palestra e per la città, ho sentito che per preservarti nell'intimo dare il sedere hai preferito, io ho scelto quelle più poetiche. E poi la terza, la mia preferita, a te, biondina che solevi sedere agli ultimi banchi, ogni mascolina verga con unanime consenso mira le tue terga e si illumina di immenso. Questa sono, ricevuto, bellissime. Sono bellissime, queste sono quelle poetiche, poi ci sono quelle senza quindi rima. Prendete, tu ti iscrivi a Spotted, esatto, scrivi e entri nella pagina Spotted, mi piace, no, e mandi quello che vuoi privatamente all'amministratore che non sa nessuno chi è, quindi loro sono anonimi, tu resti anonimo e viene pubblicato sulla pagina, ognuno può commentare e fare le sue. Bellissime. È molto bello, devo dire, è molto bello. E va bene, poi parliamo di un'altra notizia, altro tormentone, Harlem Shake, questa danza partita dall'America. È un fenomeno di internet. Esatto, un fenomeno. Va bene, l'accendiamo. Un fenomeno internettiano in cui praticamente si fa una sorta di, chiamiamolo, flash mob. Quindi c'è una stanza, per esempio qui, tu sei tranquillo che leggi, io entro ballando, io e Giorgio, tu sei lì che continui per i cavoli tuoi, poi a un certo punto della canzone, quando riparte il pezzo, attacca alla grande, tutti insieme facciamo casino. Quindi urla, tiri di cuscini, danze, cose sfrenate con il corpo. E il video spopola su internet con tanti montaggi. Sì, almeno 250.000 video, ce ne sono tipo diversi finora, con non so quante visualizzazioni. E la canzone rischia di battere addirittura Gangnam Style. Ma noi la possiamo fare sentire dopo la pubblicità? Ma non credo, non credi. È troppo poco troppo radiofonica. Bella, troppo bella, troppo poco radiofonica. Invece dobbiamo lanciare la pubblicità e un pezzo e poi la pubblicità e ricordarvi che continuiamo con la nostra classifica dei 10 pasti malsani di un universitario fuori sede non appena torniamo in diretta. Restate con noi. A dopo. Putino che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma di un putino che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma di un putino che è muy machino, amo il machino, marica nena. Su familia y a Iñaki, su hermano. Al maricón, ven que Panda Show. La tua radio. Panorama. Roll another blunt. Yeah. Okay. Stai ascoltando L'Onda in Onda. La da, da, da. La la la la. La la la la. La la la la. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La, da, my room da, da, da. Is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La, da, da, da, da, da, da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La, da, da, I'm taking da, da, da. It next semester, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La, da, they took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, because I got high, because I got high. La, da, da, da, da, da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La, da, da, da, da. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah, because I got high, because I got high, because I got high. La, da, da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Turn this shit off. Yeah, because I got high. Keep going. Because I got high. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, no, come on. Come on. Go. Go. I messed up my entire life because I got high. Go. Go. I lost my kids and wife because I got high. Say what, say what, say what, say what. Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, because I got high. Because I got high. Because I got high. La, la, la, da, da, da. I'ma stop singing this song because I'm high. Baby, I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. And if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, cause I'm high. Cause I'm high. Cause I'm high. Are you really high, man? Rientriamo con L'Onda in Onda, sempre agli studi Radio Panorama. Oggi, insomma, tantissime novità. Sì. E come la settimana prevede, noi dobbiamo lanciare la nostra rubrica più attesa di tutta la settimana, che è quella dei film brutti, con Marco. E quindi subito sigla. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Ed è incredibile, Marco è qui in studio con noi. Ciao Marco! Oh, grandissimo! Cioè, no, siete veramente grandi, cioè, mi fate tagliare in due, siete veramente forti. C'è quell'altro che mi vuole imitare al telefono, ma non c'entra niente con me. Allora, volevo parlarvi di un film, si chiama... Un attimo, Marco, spiegaci... Quello al telefono che chiamiamo non è il vero te. È il finto Marco, è uno che si finge me, che sta ma ci sta Toscana. Ascoltando, lo sai. Ma lui chiama sempre, lo so. Allora, volevo parlare di un film, si chiama L'Ultimo Topo. L'Ultimo Topo, sì, ma non mi sembra che tu sia quello. È un topo che c'è, cioè, la storia di questo mostro, pazzesco, cioè è lisergica, è irrazionale. Marco, senti, ma la regia di chi è? Di quel testa di cazzo che sono io. Ciao Marco, volevo farti una piccola sorpresa col tuo alter ego live qui. Questo impostore! Sei rimasto in silenzio. Ma guarda, a me, io non ero convinto che fosse quello vero, Marco. Sì, no, io non era molto convinto. Siamo contenti che ci hai ascoltato in silenzio, perché volevi capire chi fosse tale usurpatore. Ciao raga, poi ho detto ma cos'è? Questa non è la mia voce. Cosa sto ascoltando? Ma sono davvero in studio. Ma sono davvero lì e non in Toscana. Ciao Marco, come stai? Ciao, grandissimo. Grandissimi, tutto bene. Guarda, ma in certi film brutti c'è qualche episodio di trasmigrazione dell'anima, quindi insomma poteva anche essere plausibile. È vero, sei tu l'esperto. Esatto. Come? Senti, di cosa parliamo oggi? Quale film ci presenti per autopunirci in questo periodo che già ci autopunisce abbastanza tra elezioni, sede vacante in Vaticano e tutto il resto? Infatti, quindi Marco, io ti voglio, voglio dirti soltanto che per quel dubbio che avevi, posso assicurarti che non è stato dato il film su cui avevi il dubbio. Quindi decidi tu, prima di lanciarlo, quale vuoi dare dei due. Va bene, ma quello allora lo riproviamo magari la prossima volta. Così era, volevo tornare al Bronx, visto che comunque, appunto, hai giustamente detto che i tempi sono un po' difficili, no? Quindi questo potrebbe essere anche uno scenario possibile del futuro, no? Il classico Bronx, diciamo, disastrato. E torniamo sempre con Castellari, nel seguito del film che abbiamo presentato qualche settimana fa. Il titolo è Fuga dal Bronx. Fuga dal Bronx. Che non promette, esatto. Benissimo. No. Ricorda un po' Fuga da New York. Esattamente. Poi, bene o male, il plot di questi film è sempre più o meno quello. Già diciamo, 1990, quello del Bronx era un po' la copia, no? Di Fuga da New York. Quindi sono reiterate le cose, sì. Esatto, sono reiterate. Però in questo caso siamo di fronte a un film veramente epico. È assolutamente... un capolavoro del film brutto. Quando dici perseverare diabolico, fa delle bellissime opere d'arte come Fuga dal Bronx. Esatto, Fuga dal Bronx è veramente un film, direi, pirotecnico, perché esplode qualunque cosa. È diciamo l'apogeo dell'uomo bruciato. Qui Castellari non risparmia sulla benzina, quantomeno dà fuoco a tutto, macchine, elicotteri, uomini, manichini, ogni cosa, veramente basta un minimo click ed esplode, tutto è chiaramente diciamo nell'ambito del film ambientato nel Bronx, diciamo con i reietti che ormai vivono addirittura nelle fogne stavolta, perché il Bronx, diciamo, è stato acquistato da una multinazionale che vuole fare un mega quartiere residenziale. Per fare questo, diciamo, si serve di un gruppo di mercenari che, con la scusa di disinfestare il Bronx, diciamo, dai ratti, dà fuoco alle persone così, senza senso. Vanno solte di mezzo, semplicemente. Ma non ha senso il collegamento, voglio togliere i ratti, do fuoco alle persone. Diciamo, quella è un po' la copertura. Ah, perché l'insensatezza del film sta proprio in questo. Esatto, la multinazionale deve raggiungere il suo scopo, quindi insomma tutto va bene. Chiaramente avevamo quello di Trash, che è l'eroe, diciamo, del film precedente, che diciamo con un paio di amici, diciamo, riesce a opporsi a questa... a questo folle piano, raduna un po' tutti i reduci delle varie bande del film precedente e chiaramente dà luogo ad una serie di scontri che, appunto, in questo film sono particolarmente focosi, diciamo, perché sì. Più o meno finiscono tutti morti bruciati. Ah, questo è veramente bellissimo, veramente, diciamo, no, che regge col fatto che brucia tutto in questo film. Esattamente, alla fine. esattamente. La scena clou di questo film qual è? Guarda, la scena clou in realtà è un cameo di Moana Pozzi. Come di Moana Pozzi? No! Di Moana Pozzi, vi assicuro che quando abbiamo visto questa scena la stanza è esplosa in un boato incredibile. Ma cioè, perché Moana Pozzi? Perché probabilmente, non so, passava di lì, stava facendo l'altro film. Detto, guarda, vieni qua, facciamo Fuga dal Bronx. Esattamente, difatti Moana entra in scena... E uno dei capi, diciamo, delle bande si rivolge a lei con questa frase perentoria: Moana, che cazzo fai qui? Bellissimo. La chiama proprio Moana. Esattamente. Quindi è un cameo, cioè lei rappresenta se stessa nel film, non è che è bellissimo. Questa atomica nel Bronx, diciamo che, appunto, viene apostrofata con questa domanda abbastanza... Moana, diciamo, che cazzo fai qui? Bellissimo, esatto. Bellissimo. Io tra l'altro su internet invece sto trovando altro materiale trash su questo film, che è addirittura la colonna sonora originale, il vinile di Fuga dal Bronx, musica di Francesco De Masi. Com'è la musica in questo film, visto che qualcuno ha avuto l'esigenza di metterne anche la copia del vinile su internet? Beh, chiaramente è una di quelle classiche colonne sonore un po' epiche, no? Con incedere, diciamo, che a sottolineare un po', diciamo, le scene più drammatiche quando brucia tutto. Esattamente, no, non vale la pena di comprarlo, però, voglio dire. Ma guarda, c'è gente che penso venderebbe anche la milfa pur di averla, insomma. Sì, immagino, immagino. Va bene, la scena di Mona Pozzi è sicuramente molto interessante da vedere. Con cosa accompagniamo questo film? Ma guarda, considerando, diciamo, diciamo l'ambientazione un po' brusciacchiata, così direi che in questo caso le patatine alla pancetta tornano ancora a essere il piatto must. Adatto, esatto, perché proprio c'è anche quel fetore un po' di cane bruciato, no? Sì. Che le contraddistingue. Speriamo non di cavallo, cioè, visto il periodo. No, esatto. Siamo attenti a quello che mangiamo. Allora, Marco, ti ricapitoliamo. Intanto sì. Ti ringraziamo. Fuga dal Bronx per la regia di? Di Enzo G. Castellari, ovviamente. Ah. È quindi il seguito dell'altro grande film, Guerrieri del Bronx, se non sbaglio. Sì, 1990, Guerrieri del Bronx. Io ve lo consiglio, vi invito tutti quanti a scaricare questo film o a cercarlo, oppure semplicemente... Scusate, te hai continuato a intervistare quel Bischio, che non è quello vero, cioè... Senta, non me ne vado proprio. Sto facendo conclusione del film. Voglio parlare di un altro film, L'ultimo obitorio. No, ma allora. C'era già L'ultimo topo, un minuto fa. C'è quello il seguito, no, non è possibile. Ma non è vero. Mi ascolti, se ne vado. Marco, scusalo, ogni tanto la copia tua. Anzi, grazie, la sorpresa è stata veramente bellissima. Davvero ma è un cretino, lascialo stare. Allora, Fuga dal Bronx, vi invito a cercarlo nelle migliori, nelle peggiori videoteche, se esistono ancora, perché ormai non si sa. Scaricarlo, cercarlo su YouTube, magari qualcosa sì. Si troverà. La reperibilità com'è di questo film, Marco? Bassa, alta? È discreta, perché c'è... Si trova, con un po' di impegno si trova. Va bene, esatto. Soprattutto per la scena di Mona Pozzi. Marco, grazie tante di questo film. Il prossimo cosa vedremo? Ci dà anticipazione? A questo punto il primo film brutto della storia, Plan 9 from Outer Space. Il primo della storia? Esattamente, del mitico Ed Wood. Addirittura quello che faceva il legno prima, lavorava il legno. Va bene, allora aspettiamo il prossimo racconto, il prossimo film che ci introdurrà un'altra autopunizione, Plan 9 from Outer Space. Noi ti ringraziamo come sempre di essere stato con noi qui ai microfoni di Radio Panorama. Scusa ancora per il disturbatore che si fingeva te. Assolutamente, tutto a posto, va benissimo. Scopriremo prima o poi chi è. Ci sentiamo il prossimo mercoledì e adesso noi ci spariamo un pezzo, ma prima, Andrea, mi piaceva dirti questa frase. Mi piace pensare che quando dici scusa per il ritardo ti riferisca a quello mentale. Ci vediamo mercoledì prossimo con Marco. Ascoltiamo un pezzo adesso. Ciao. Green Day con Is Jesus Nowhere. Like a dog that's beside a mine. Now, now, now. E torniamo, abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo riprendere la nostra classifica immediatamente, Antonio. Velocissimo riassunto, allora. Di cosa? È la classifica dei 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. Al 10° posto le uova, al 9° posto i würstel, all'8° il toast. Andiamo alla posizione numero 7, lo scatolame. Al primo impatto con lo scatolame, lo studente è guardingo. È abituato a roba di qualità lui. La mamma gli preparava le lasagne, il filetto, gli comprava il gorgonzola. Abituato c'era, va. Ma che schifo il gorgonzola, però. Neanche a mia madre piace, sai? Neanche a me. Io parlavo di mia madre. Figuriamoci se adesso scenderà a compromessi. La promessa nei primi tempi fuori casa è di mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata. Frutta, verdura, carne, formaggi in gran quantità, ben distribuiti durante la settimana per crescere forte e vigoroso. Con il tempo le prospettive cambiano e il reparto scatolama diventerà la seconda casa dello studente. E come i soldati di trincea ci si stupisce di quante cose possono essere contenute in delle scatolette. Io devo dire che quando sono andato invece a Bristol a trovare la mia cara Serena, c'era un ragazzo che mangiava una porcheria incredibile. Era una specie di bicchiere del tè, non so se è presente, un bicchierone di quelli, sì. Non so come spiegare, quelli di carta. Sì, ho capito. Però chiuso ermeticamente, che aprivi, no? Come una, lo aprivi come uno yogurt. C'è la pasta dentro. Come uno yogurt, e c'è la pasta. Sì, cioè io l'ho visto mangiare i giapponesi in America. Ma poi fa puzza di uova. Sì, è una cosa orrenda. Sì, si chiama ramen. Si chiama ramen, dice Giorgio. Sì, sì. Non era quella pasta giapponese, però. Era erano gli ditalini, esatto. Tipo le anelletti. Le anelletti. Non è la pasta giapponese, è una pasta. Cioè, la pasta là dentro sembrava tipo carbonara. Erano una tipo cosa del genere. Le anelletti. Erano uno schifo. Che è un cibo inedito. Inedito. Andiamo al sesto posto. Il sesto posto io l'ho posto. L'ho posto. Io scusa, allora, il sesto posto lo voglio dedicare alla mia collega Claudia, che mi sta ascoltando per la prima volta. Ciao Claudia, non dirò ovviamente il cognome, Cartaino. Allora, la pizza surgelata al sesto posto. Migliori inquiline del congelatore dell'universitario solitamente provengono dall'offertone fuori tutto dei supermercati. Lo studente tura il naso e acquista, e di colpo la farina etiope, il pomodoro cinese, la mozzarella polacca lo catapultano nel cuore di Napoli tra scugnizzi e mandolini. Oppure una buonissima torta Ikea. Alla posizione numero 5 il kebab. Ma perché c'è un'immagine di una che sembra una delle foto della Coca-Cola del 1800? Comunque la cena... quella dei Kinder. Ma poi è finta lei, scusa. Sì, è infatti è la madre di quello dei Kinder. Non è il kebab questo è il doner. Questo è i kebab. I kebab. Questa è carina. Troveranno tra cei cavallo nell'Ikebab. Invece di Ikea. Non l'aveva capita il pirla, perché guarda altre cose. La cena di gala concessa una tantum, il 3 stelle Michelin degli universitari, si chiama Kebabaro. Nel giorno dei giorni si esagera. Al kebab si affianca l'amore tona, assecondando l'istinto ad ingerire soltanto alimenti che gonfiano. Gran finale, prima dei saluti, con timbro sulla schedina per raggiungere il 10° kebab omaggio. Il mitologico panino gratuito, che arriverà soltanto al termine della sua carriera universitaria. Andiamo subito alla posizione numero 4 con tonno o pasta al tonno. Questa vero, me la propongono sempre. Bellissima immagine, citazione finta di Jim Morrison sulla pasta col tonno. Non ci va il parmigiano. E lo dice Jim. Comunque è vero che ogni volta che vado a trovare dei colleghi universitari, diciamo che sono a Palermo in affitto, cosa si mangia? Pasta col tonno. Raramente si varia da quella. Eletta ab eterno la pasta prediletta degli universitari. Nella pancia dello studente fuori sede nuotano stock di pinne gialle. Finiti gli studi, diventerà indigeribile. E andiamo alla posizione numero 3. Andiamo al podio. Le derrate alimentari di mamma, che qui è rappresentata da Dita Fontis. Esatto. Se tutti avessero una mamma così, tutti ci metteremmo due dita, diciamo. Vabbè, il super rifornimento, l'aspetto del fuorisede di mese in mese più sciupato, muove a compassione il cuore di mamma, che in questa occasione cucina tutte in una volta mamma, i piatti preferiti dello studente. Curiosa è l'evoluzione dello stesso, se nel primo periodo in cui si è trasferito egli si dimostra scarsamente interessato al cibo dei genitori. Con il passare del tempo i suoi ingressi nella vecchia abitazione assumono i connotati di raid e costringono la famiglia a numerose spese supplementari. Pubblico deve applaudire, perché Andrea non ha sbagliato, ma ha letto una cosa che è scritta sbagliata: i suoi ingressi. Attenzione, passa anche Upicuraru. Grazie. Andiamo subito al secondo. La posizione secondo, numero 2. Latte e biscotti. Col mostro del biscottino dietro. Sì, latte e biscotti. Non è uno dei Muppets. È il mostro dei biscotti. No, no, non è il mostro dei mostri. Ma chi è il mostro dei biscottini? È a caccia di mostri. Due cretino totale. Sì, e da quando abbiamo non l'hai visto? No, guarda, ma chi è? È il mostro dei biscottini. È il mostro di A Caccia di Mostri. E che cos'è? È un film. Della Pixar. E che cavoli tuoi. Io ho i Pixel, non la Pixar. Comunque, ma... latte e biscotti. Diversivo interessante. Eleonora se ne va. Ciao Eleonora, grazie per essere stata con noi. Occupare qualsiasi pasto della giornata con la colazione. Hai fame? Biscotti. Hai sete? Latte. Hai fame e sete? Latte e biscotti. Nel lungo periodo si abbandonano le grandi marche e si punta dritti e risoluti sui biscotti del discount, in panchetti grandi quanto il carrello della spesa. E non posso non salutare Serena quando sento parlare di biscotti, perché lei mangia solo biscotti e col suo amico biscotto ne ha solo uno. Tanto si è visto l'effetto collaterale del mangiare solo biscotti per Serena, è gonfiata. Perché? Ah sì, va bene, va andiamo alla posizione numero uno. Ci sta, fa segno di mungere. Vabbè, andiamo alla posizione numero uno. La pancia vuota. Beh, fine mese, frigo vuoto, portafoglio vuoto, fame. Che si fa? Si beve acqua. Sana e rugginosa acqua del rubinetto. Idea, invito gli amici, sono ricchi, portano a mangiare. Invece no. Guarda, che si fa? Si beve acqua. Invece no. Eccoli lì sulla porta, con le loro belle bottiglie di vino, le lattine di birra e una cannetta magari. Niente cibo, siamo universitari. E questa era la classifica dei 10 pasti malsani di un universitario fuori sede. E il più, diciamo, il meno... Il più? No, il meno ingrassante è la posizione il numero più, uno. Diciamo, il meno. Il meno ingrassante è la posizione numero uno. Noi il facciamo metà più... radio, sì. Questa non è radio, è meta radio. Il meno ingrassante è la posizione numero uno. Il più abbondante, diciamo, è la posizione numero due. Abbiamo invece visto biscotti, biscotti che fanno crescere. Altre cose, quella, diciamo, meno schifosa, cioè la più schifosa sono... le uova che abbiamo decretato che fanno schifo a tutti, possiamo ammetterlo. Io dai. Chiedo perdono ai nostri ascoltatori, ma anche ad Eleonora, Giorgio, a Brumma, perché Andrea non è in grado di intendere di volere una classifica che era andata benissimo. Un riassunto di merda. Voglio riassumere che le uova hanno ma il riassunto di merda, ma il riassunto di no, merda, ma dai, era, ma non posso farlo. Me la fai un'introduzione sull'Andrea Massaro? Sì, vai, hai la musica. Andrea Massaro nasce il 17 giugno del 1986 a Termini Imerese, ospedale Cimino, alle 10:30 del mattino. Segno zodiacale Cancro, ascendente Gemelli. Nasce al Gemelli di Roma il 17 segno giugno. Scusa, segno zodiacale Gemelli, ascendente Pirla. Andrea fin da subito si contraddistingue per i suoi suoni, ad esempio. Oppure. E tanti altri ancora. Da allora entra nelle radio e non sa parlare in italiano. Ma noi ti vogliamo bene. Vuoi una sdraio? Della Nestlé. Occhio. È diventato arabo. Noi ti vogliamo bene non così. Non sa parlare italiano. Grazie Andrea. Va bene, noi siamo arrivati alle 19:59. Comunque, lo decretiamo che le uova sono il pasto più brutto. A me piacciono, le succhio anche crude. Anche io, però, diciamo, per gli universitari. Ah, vabbè, per gli tu succhi altro. Anche Brewster. È bello perché non ho posto. Bello perché alle 20 della sera un bambino accende la radio. Volevo salutare anche la mamma della mia ragazza che avrà sentito questa battuta. Ma che abbiamo detto? Salve, scusa. Signora Rosa. Non ho posto, ci sono i Brewster. Ah, non ho posto, ci sono i views, c'è anche una bella foto di una appunto, ragazza, cioè, dico. Che apprezza il cibo. Va bene, allora, insomma, sono le 20, per chi ci sta ascoltando di notte, sono le 2, noi ci salutiamo adesso con una bella canzone, vi diamo appuntamento mercoledì prossimo. Lui era Andrea, lui era Antonio e di là c'era Brumma. E se questa notte quando ascoltate l'Onda in Onda avete fame, mangiate i Brewster. La cosa bella sai qual è? Che mentre noi diciamo queste cose c'è un cretino dietro che mi dà i pizzicotti, perché c'era anche Giorgio. Salutiamo Giorgio e anche Eleonora e tutti, andatevene a fanculo. Ci vediamo mercoledì, ciao. Ciao. Ciao. Ieri andando a fare due passi in un percorso di fede, mi chiedevo posso smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, toccato. Fin dall'età di 6 anni ero già condannato. Avrebbe detto che sarei finito dannato, ma come ti muovi ti imbatti in un peccato, credi in un gruppetto e poi li nomini in vano. Per Giove, per Diana, per Marco, per Vinci, pippi e ti dimentichi il santificare. All'inferno. Non onori i papi, non onori la mami. Accidentalmente assassini la gente dopo una cena e